se vuoi dire di sì, di sì. E se vuoi dire di no, di no. Se non ti fidi più di me, dimmelo. Se desideri maggiore comprensione, ma non guardarmi con quegli occhi teneri, da quel fondo di bottiglia. Non baciare quel veliero libero, tanto lui non partirà. Hai cominciato a crederci tanto tempo fa, ed ora che è finito, guardalo, lui ti tradirà. Esci dalla bottiglia, salta sul palmo della mia mano, fidati. Oggi una bella giornata limpida, e sta già crescendo il grano. E rimettiti i vestiti morbidi, e ridiamoci la mano, godiamoci la vita, e ridiamo della morte. Chiamiamoci la vita bambola, fino a che ci sente. Rompi la bottiglia, salta sul palmo della mano, salta dalla bottiglia piccola, il veliero è già lontano. Salta sul palmo della mano, fidati. Oggi è una bella giornata limpida, sta già crescendo il grano. E godiamoci la vita, e ridiamo della morte.